L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa che finalmente è la giornata di inaugurazione dell'Expo, il famoso e famigerato Expo. Radio 24 lo sta seguendo da RO, quindi dal sito stesso dell'esposizione. Io che oggi registro questa puntata sarò là, quindi niente aggiornamenti in diretta oggi qui, ma una puntata dedicata a quanto di Expo possiamo dire al 30 aprile, una puntata che dedichiamo ovviamente ai temi portanti dell'esposizione, quindi la nutrizione. Questa settimana tutti abbiamo parlato della Carta di Milano, questo grande patto la cui intenzione è di portare al riconoscimento del diritto al cibo come diritto umano fondamentale che il governo italiano vorrebbe fosse sottoscritto dal maggior numero possibile di cittadini, aziende, istituzioni, organizzazioni governative non durante i mesi di Expo, in modo da poter poi consegnare tutto il pacchetto Carta di Milano nelle mani del segretario generale delle Nazioni Unite, che sarà a Milano nell'ottobre prossimo. È un'iniziativa nei principi lodevole, nella pratica però potrebbe zoppicare un po', e ne parleremo con l'unico che dal palco dell'Aula Magna della Università di Milano, dove è stata presentata la carta, l'unico, dicevamo, che ha espresso ad alta voce le sue perplessità. Cominciamo però dal contesto generale, cominciamo con il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che è colui che ha preso in mano le redini di un progetto che anni fa era stato immaginato e avviato dal Barilla Center for Food and Nutrition, che l'aveva chiamato Protocollo di Milano. Ne abbiamo parlato molto anche in questa trasmissione in passato. Il progetto poi è passato nelle mani appunto del Ministero delle Politiche Agricole, anche per motivi che il ministro ha esplicitato nella sua presentazione. Voglio dire che qui noi misuriamo l'ambizione politica di Expo e dell'Italia, perché la carta è un formidabile strumento di diplomazia dell'Expo. C'è, secondo me, una caratteristica straordinaria che non abbiamo molto riflettuto in questi mesi, cioè Expo è di per sé stessa una piattaforma diplomatica formidabile, forse unica, anzi direi unica, unisce pubblico e privato, governi e istituzioni locali, associazioni e singoli cittadini, ed è un luogo straordinario per provare a fare politica, nel senso più nobile del termine, a partire da un grande tema come questo. Io penso che la carta sia il supporto che noi diamo per fare 6 mesi all'altezza delle aspettative e della centralità di questa questione. Basta vedere cosa sta accadendo nel Mediterraneo in queste ore per capire la connessione profonda che c'è tra questo tema e quello che accade nella realtà, tra questo tema e le decisioni politiche che non solo l'Italia, l'Europa, il mondo sono chiamati ad adottare, perché non c'è forse dentro quella drammatica questione un grande tema di diritto al cibo? O se ci ricordiamo delle primavere arabe, ci dimentichiamo forse che buona parte di quei movimenti si generarono e vennero, sostenuti innanzitutto da un grande bisogno di affermare in quelle terre il diritto al cibo? E non è questa la chiave per capire tanta parte delle nuove relazioni internazionali e anche dei nuovi scenari che non solo in Europa ma nel mondo si stanno generando? La lettura di politica internazionale che fa il ministro Martina ci sta tutta, come ci sta quella nazionale, sempre nelle parole di Martina. Cerchiamo di misurarci alla stessa altezza di alcune grandi contraddizioni che stiamo vivendo qui e altrove. Qui altrove, perché poniamo alcune questioni che ad esempio per il lavoro che faccio io ogni giorno sono cruciali. Se io definisco il tema della tutela del reddito di agricoltori, allevatori e pescatori come una delle priorità di questo tempo in Italia come nel resto del mondo, perché solo di lì passa un pezzo non solo di conservazione, di tutela di modelli agricoli, ma di sviluppo di un settore cruciale come l'agricoltura in Italia e altrove, mi sto ponendo una grandissima questione. Se penso ad esempio al nostro dibattito italiano, questa questione porta con sé alcune responsabilità politiche, alcune decisioni, alcuni provvedimenti, alcune leggi. Se affermo, come affermo, il concetto cruciale della tutela del suolo agricolo in Italia e nel mondo, questo porta con sé delle responsabilità. e delle decisioni politiche. Se mi pongo il tema dello spreco alimentare, certo che guardo alla grande questione del rapporto con le imprese, ma devo fare anche i conti con tutto ciò che accade a casa mia. Innanzitutto direi tutto ciò che accade in casa mia. Ecco, io credo che la potenza della Carta di Milano stia nel fatto che è riuscita per davvero a condensare il campo degli impegni, delle priorità, degli obiettivi, è riuscita a scavare in profondità facendo emergere tutta la portata politica straordinaria dell'appuntamento che abbiamo di fronte. Salvatore Veca, invece, professore e filosofo di fama internazionale, è stato colui che ha coordinato i lavori per la Carta di Milano e le sue sono state parole molto ispirate ma anche concrete. Abbiamo ascoltato ora, grazie, la bella lettura della Carta, la legacy immateriale di Expo 2015, un documento di global citizenship che, muovendo dalla convinzione secondo cui il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, chiede un'assunzione di responsabilità condivisa nei confronti di impegni per l'obiettivo di un mondo senza fame. Impegni che coinvolgono donne e uomini, cittadini di questo pianeta, la società civile, le imprese, e che chiamano in causa la responsabilità delle istituzioni, dai livelli locali ai livelli nazionali, a livello internazionale e transnazionale. Questo è il nostro assioma. Siamo convinti e convinte che il diritto al cibo sia un diritto umano fondamentale e riteniamo che un mondo senza fame sia un mondo possibile. Ogni violazione di tale diritto fondamentale è una violazione della dignità umana, di chiunque, ovunque. Questo è il teorema fondamentale della Carta. Mi sembra importante ribadire, come è stato detto, il Ministro Martina l'ha sottolineato con forza, che la Carta è l'esito di un processo, ma al tempo stesso è il punto di partenza di una varietà di processi. Durante il semestre Expo, in cui l'Agorà si trasformerà in uno spazio pubblico globale per il confronto delle idee, per la discussione pubblica, per la sacrosanta controversia, quando essa è necessaria in questioni difficili, per la partecipazione e per la divulgazione dei grandi temi al centro della ricerca e al centro della qualità di vita delle persone nel mondo. È di qui che emergeranno, sullo sfondo della Carta e grazie alla Carta, i suoi nuovi allegati. Così sarà possibile arricchire questa biblioteca degli annessi alla Carta con nuovi contributi e nuovi elementi di conoscenza e di pratica, e in questa versione la Carta, con questa biblioteca, sarà presentata e consegnata al segretario generale Ban Ki-moon nella sua visita di ottobre a Expo. Questo è quello che diceva Veca dal palco. Più tardi, a margine dell'incontro, così ha risposto ai giornalisti sulle reali possibilità di riuscita di un documento che parte dal basso e non dalla volontà dei governi. Ma sono sicuro che questa via di una Carta che parla con la voce dei cittadini e che non parte da accordi intergovernativi è oggi quella più, sembra utopica, ma la più realistica, perché vi sono molti contrasti nel mondo e tra vari contesti, sia tra il mondo più ricco e il mondo meno ricco, sia tra il mondo in via di sviluppo e il mondo che ha conosciuto crescita. Vi sono molti contrasti, le vediamo ogni volta che il problema del mutamento climatico, che adesso andrà a Parigi per esempio, viene messo in questione, e lo stesso vale nell'ambito della problematica del produrre cibo, del fare cibo, e quindi diciamo, la Carta sarà una specie di termometro del grado, della temperatura di responsabilità dei governi. L'altro pianeta. Nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando della Carta di Milano in questa che è la giornata di inaugurazione dell'Expo. Questo documento, la Carta di Milano, in 8 capitoli dalle profonde ambizioni, è stato presentato in settimana nel capoluogo lombardo. È un patto sul diritto al cibo che si vorrebbe legittimare con le firme dei visitatori di Expo, quindi tutti i visitatori, i cittadini, le imprese, le organizzazioni, le istituzioni, i governi. E stavamo dicendo nella prima parte del programma che è tutto bello bello e giusto nella teoria, ma che qualche dubbio sulle reali possibilità di riuscita dell'iniziativa c'è. L'unico a esplicitare questi dubbi in fase di presentazione della carta è stato, dal palco dell'Università Statale di Milano, Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, un'organizzazione no profit che comunque ha partecipato ai lavori per la stesura del documento della Carta di Milano. Ma vedi, la Carta di Milano è un'iniziativa del governo. ActionAid ha sempre invitato il governo italiano a cogliere l'occasione dell'Expo per prendere un'iniziativa politica, per evitare che Expo fosse ridotta alla fiera della ristorazione, che è la cosa, diciamo, più semplice che accada se non c'è una forte iniziativa politica. Quindi noi abbiamo molto ben accolto la spinta un po' tardiva, devo dire, ma che parte circa 6 mesi fa, quando sono 4 anni che ci prepariamo a questo Expo, per un'iniziativa politica che lasciasse quella che anche ieri è stata detta, diciamo, un'eredità immateriale di questi 6 mesi di riflessione su come nutrire il pianeta. Benissimo, questa è la parte positiva. Dopodiché i governi, gli stati anzi, non solo i governi del tempo, sono le istituzioni anche locali e regionali sono secondo il paradigma dei diritti, e ieri si è parlato molto di diritto al cibo, quelli che i diritti li devono garantire o che devono svolgere un ruolo regolatorio in modo che tutti possano concorrere alla fruibilità di questi diritti. La Carta di Milano è un po' stravolta, nel senso che è una specie di appello. Il governo italiano chiama tutti, i privati, le aziende, le organizzazioni non governative, i singoli cittadini a impegnarsi, però per ora con quel testo non è andato in sede internazionale, all'Unione Europea. Dico un esempio molto semplice: il ministro Martina è il ministro dell'agricoltura, ogni paio di mesi c'è un Consiglio Europeo Agricoltura, e così per tutte le altre materie. Non è andato neanche ancora in sede di Nazioni Unite a prendere un'iniziativa politica per cui per esempio si dia un taglio particolare ben definito alla riformulazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili che verranno approvate a settembre per i prossimi 15 anni. C'è una contraddizione forte, per esempio. L'Italia è uno di quei paesi che in sede di Nazioni Unite continua a dire che bisogna mantenere l'obiettivo del rapporto aiuto pubblico allo sviluppo prodotto interno lordo dello 0,7%, però poi in finanziaria alloca risorse per lo 0,2%. Quindi io ho avuto occasione di dire, a proposito della Carta di Milano, che un soggetto come ActionAid fa uno sforzo di pragmatismo civico, nel senso che bisogna esserci, e questa è la parte programmatica perché si parla di cibo, ma bisogna esserci su vari fronti. Noi per esempio siamo tra i promotori dell'Expo dei Popoli, siamo anche quelli che poi appena in questi giorni discutiamo di come dare del cibo nell'emergenza in Nepal, siamo quelli che saranno nell'Expo in città, siamo tra gli animatori di Cascina Triulza e siamo anche ai tavoli tecnici con tutta una serie di proposte. La Carta di Milano ci raduna tutti attorno a prenderci le proprie responsabilità. Io credo che tra le responsabilità del governo ci sia quella di proporre legislazione e proporre iniziativa internazionale. Lo stesso governo che adesso, come dire, si mette al centro di questo sforzo di comunicazione con la Carta di Milano ha depositato in Parlamento un disegno di legge sulla scuola, e dentro questo disegno di legge sulla scuola c'è di tutto, da questioni afferenti al lavoro, i precari della scuola, l'edilizia scolastica, ovviamente la parte dei programmi, e proprio nell'anno di Expo non c'è neanche un paragrafo sull'educazione alimentare e sulla regolazione di quei contratti che determinano come deve funzionare la ristorazione collettiva nelle scuole. Questa è una partita che vale 1,5 miliardi, 380 milioni di pasti vengono consumati dai nostri figli a scuola ogni anno, è una cosa di interesse di tutti, e io troverei che chi ha la responsabilità di proporre appunto delle norme dovrebbe poi tradurre le ambizioni non solo in una chiamata raccolta di tutti, ma proprio nel migliorare questi aspetti in cui ci troviamo a confrontarci tutti i giorni, tutti i cittadini, ma siamo regolati dal ruolo del governo, non certo. da un'impresa o da un individuo, insomma. E quindi io spero che Martina e le istituzioni locali, ieri c'era anche ovviamente il sindaco, la regione, eccetera, facciano poi qualcosa di più di un'eredità immateriale, che attraverso questa comprensione del da farsi lasciano un'eredità che pertiene al loro ruolo, nulla più, nulla di meno. Sì, ci voleva almeno un'azione dimostrativa, diciamo, di questa volontà, no? Ma guardi, io per esempio questa della ristorazione scolastica, ad esempio, la trovo che non sia tanto dimostrativa, perché ripeto, orientando domanda di cibo per 1,5 miliardi, poi si cambiano anche i pattern produttivi. A scuola in Italia, per esempio, un pasto costa, con una variazione enorme, tra un euro e mezzo e 7 euro, quindi, come dire, si può o molto risparmiare o molto aumentare la qualità. Comunque, dei 4,5 euro, che è appunto la media nazionale, noi sappiamo che un terzo è cibo e il resto è packaging, trasporti e spese per la distribuzione. Quindi c'è un'enorme possibilità, regolando questa materia, dicendo si deve comprare nella zona vicino a dove il tal distretto scolastico si trova, da fornitori locali, si deve comprare fuso, si deve evitare il packaging, non si spreca, si comprano le quantità giuste, eccetera, regolando, insomma, questa cosa si fa di più di un'azione dimostrativa, e questo è possibile, alla portata, ci sono i dati, quindi io trovo utile che si facciano i convegni nei quali si dice è un problema che un terzo del cibo che si produce nel mondo si spreca lungo tutta la filiera, però troverei ancora più utile che poi per dire su queste cose si mettesse mano con normativa a livello locale e nazionale. E così Marco De Ponte, per il momento chiudiamo qui con la carta, parliamo di cibo concreto a questo punto. Torniamo a vedere che sta succedendo nell'azienda agricola di Mario Vigo, ex vicepresidente di Confagricoltura Nazionale, oggi presidente del centro studio Innovagri. La sua azienda ha sede a Mediglia, provincia di Milano, e ha sperimentato lì Vigo il progetto Combi Mais Hydrotechnologies, patrocinato da Expo. Siamo alla seconda fase della sperimentazione, che riguarda, come dice il nome del progetto, il mais. Stiamo andando verso il secondo raccolto e allora sentiamo che cosa ci ha raccontato di questa seconda fase del lavoro. Allora, in questa seconda fase abbiamo completato, allargato e, se posso usare questo termine, affinato il progetto. Quindi questo che cosa vuol dire? Il nostro progetto è già un progetto a valenza biennale, ma con il clou, la parte più importante, nel 2015. Innanzitutto abbiamo allargato il terreno, l'anno scorso erano 10 ettari, quest'anno sono 30 ettari, chiaramente è un quantitativo molto rilevante, questo per permettere a coloro che possano evidentemente visitare il progetto di avere un'idea completa. Perché anche questa storia dell'allargamento? Primo, per dimostrare che è un sistema assolutamente molto molto valido e, diciamo, in prospettiva per cambiare il sistema dell'agricoltura nel nostro paese, poi spiegherò perché, e per creare anche un sistema valido su un certo ettarato da poter esportare soprattutto verso i paesi africani. Perché cambiare, questo è il primo passaggio, perché cambiare l'agricoltura nel nostro paese oltre che quella dei paesi appunto africani o asiatici? Cioè, diciamo che sono due messaggi, come dire, diversi ma che si uniscono. Sostanzialmente, per quanto riguarda il nostro paese, abbiamo messo a punto quello che ho detto, affinato il progetto, perché ogni passaggio diventa un passaggio importante. Cioè, le faccio un esempio: noi non conciniamo le piante, noi nutriamo le piante. Noi pensiamo che si possa fare un'agricoltura anche di produzione, infatti le accenno uno slogan che a me piace e che ho pensato: produrre di più e meglio con meno. Cosa sta a significare? Che dobbiamo produrre di più perché nutrire il pianeta ce lo chiede. Dobbiamo dobbiamo produrre meglio per dare al consumatore un prodotto più sano, perché il mais fa parte di una filiera importantissima e strategica nella fase di nutrimento animale o umano, e meno perché a questo punto la natura, l'ambiente ci chiede di poter cercare di produrre di più ma con meno sostanze. Quindi nel nostro caso l'importanza di questo progetto fa sì che abbiamo delle riduzioni, quindi per questo che ho parlato con grande chiarezza dicendo noi nutriamo le piante con un concetto come se dovessimo nutrire le persone, e in questo avremo una riduzione energetica, meccanica e idrica. Mi spiego, se noi consumiamo meno avremo una riduzione energetica, quindi meno emissioni. Se noi abbiamo meno passaggi risparmiamo il suolo, risparmiamo il terreno e abbiamo una riduzione meccanica. E consumando, come i nostri dati dicono, il 30-40% meno d'acqua, abbiamo comunque un ulteriore risparmio anche dal punto di vista idrico. Quindi direi che tutto questo è un passaggio importante del progetto per poter dare una risposta all'agricoltura del nostro paese. Nel contempo, come le dicevo, è un sistema, visto la riduzione del consumo d'acqua, esportabile in paesi in cui ci sono problemi ovviamente di mancanza d'acqua o di mancanza anche di fertilità, perché noi risparmiamo l'ambiente toccando il meno possibile il terreno. E così Mario Vigo ci ha spiegato questa seconda fase che riguarda il progetto Combi Mais Hydro Technologies. L'azienda è a Mediglia, come dicevamo, provincia di Milano, e sarà visitabile nei mesi di Expo. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.